Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1835. Data storica per gli Stati Uniti, l'8 gennaio il debito pubblico è stato azzerato. New York in fiamme, un incendio enorme brucia oltre 500 palazzi, tra cui quello della Borsa. Timori a Torino per il colera, l'epidemia arriva dalla Francia, primi casi in Piemonte. Carcere o esilio in America, ma non verranno eseguite le condanne a morte per i cospiratori lombardi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura parliamo di economia perché gli Stati Uniti, per la prima volta nella loro breve storia, sono riusciti ad azzerare il loro debito pubblico. La data che gli economisti hanno già definito storica è quella dell'8 gennaio. La riduzione è stata costante, iniziata nel 1817, quando il debito ammontava ad oltre 129 milioni di dollari e il risultato è stato ottenuto grazie anche ad una serie di vendite di terreni che hanno scatenato una speculazione. Alcuni temono che tutto questo potrà portare ad una nuova bolla. Già il presidente Monroe, comunque, una decina di anni fa aveva detto che gran parte del debito si sarebbe potuta riscattare proprio quest'anno, fatto che è puntualmente avvenuto sotto la presidenza di Andrew Jackson. Lo stesso Andrew Jackson è sfuggito pochi giorni fa ad un attentato, il primo ad un presidente degli Stati Uniti. Si trovava in South Carolina per il funerale di un politico quando un folle, un imbianchino disoccupato di origine inglese di nome Richard Lawrence, gli ha puntato una pistola addosso e ha sparato. Ma la pistola si è inceppata, così come è successo alla seconda che ha tirato fuori dalla tasca. Ad influire probabilmente è stata l'umidità. E restiamo negli Stati Uniti per il gravissimo incendio che ha colpito New York, dovuto anche al vento gelido che ha spirato sulla città. Tra i 500 e i 700 edifici, tra cui quello della Borsa, sono andati in fiamme, con i vigili del fuoco che si sono trovati in forte difficoltà nel reperire acqua perché l'East River era completamente congelato. Per fortuna le vittime sono state solo due, ma i danni economici sono difficilmente quantificabili e probabilmente non vi saranno risarcimenti. A bruciare sono stati anche i palazzi delle compagnie assicurative, molte di loro già preannunciano fallimento. Nonostante il cordone sanitario che Carlo Alberto ha deciso di istituire al confine con la Francia, il colera è passato. Dopo Nizza e Tolone si sono registrati alcuni contagi in Piemonte e se ne segnalano già alcuni altri a Venezia e nel Lombardo-Veneto in generale. Intanto si registra qualche apertura proprio nel Lombardo-Veneto da parte del neo imperatore d'Austria Ferdinando I, succeduto a Francesco I, morto in marzo. Non verranno eseguite le condanne a morte contro i cospiratori arrestati negli anni scorsi nella zona. Loro è stata data la scelta se scontare la loro pena in carcere o emigrare negli Stati Uniti. Infine una notizia appena arrivata su uno dei ricercati dalla polizia sabauda per il tentativo di insurrezione dell'anno scorso. Le forze dell'ordine hanno appreso che il latitante Giuseppe Garibaldi è riuscito a fuggire dall'Europa rifugiandosi in Sud America. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Sul nostro sito potete scaricare come sempre il nostro foglio quotidiano. Ci sono immagini e notizie. Visitate e lasciate commenti sul nostro blog, sulla nostra pagina Facebook o fatelo inviandoci una missiva digitale, gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.